Per quanto riguarda Expo, noi saremo il primo esempio di una rete Wi-Fi a larghissima banda dell'ultimissima generazione del 2015, con hotspot Wi-Fi ogni 20 metri, tale per cui una persona potrà essere gestita da quattro antennine in qualunque punto si trova, e quindi per esempio un servizio che sarà portato da questa rete Wi-Fi, la localizzazione ad altissima precisione, precisione di un metro. Quando io so dove sta una persona con la precisione di un metro, gli posso proporre dei servizi eccezionali a suo beneficio. Un'altra cosa sarà la quarta generazione del radiomobile, dove tutti adesso sono abituati non solo al GSM ma anche al 3G. Nel 2015 avremo il 4G con i tablet pieghevoli che faranno l'integrazione del fisso del mobile e del telefonino con il computer. Queste cose le replicheremo il più possibile su Milano. Abbiamo già un progetto che si chiama Ecosistema, che cerca di coinvolgere le aziende dei servizi di vario tipo, dall'accommodation alla salute, all'arte, alla cultura, ai trasporti, in modo che i servizi siano per i visitatori, per i cittadini, in modo coerenti fra di loro. Se io prenoto una camera in un certo albergo di un certo quartiere, che ha una certa fascia di prezzo, e quell'albergo non ha più camere disponibili, è lui che mi deve mandare su un albergo analogo che si trova nella stessa zona. Questa interazione degli applicativi di disponibilità del servizio passerà attraverso Expo. Expo svilupperà una piattaforma che si chiama in inglese Service Delivery Platform, una piattaforma di consegna e gestione dei servizi a cui si interconnetteranno le aziende dell'ecosistema esterne ad Expo, in modo che diventino interoperabili fra di loro.